sono allucinato, sono sciroppato di cose che io ancora non conosco, e a volte perdo i sensi perché voglio un altro mondo, uno favoloso come quello di Emily, perché in quello dove vivo sono fatto di post-it, poster di ragazze belle come Marilyn, scombinati sopra il pavimento paia di blue jeans, vasi giapponesi, provette, tesi, garzette, arnesi, porta sigarette, ammassi di schifezze come il corpo che possiedo, ho tante debolezze, sono ingenuo ma che genio, cerco gli ingredienti per trovare la mia svolta personale, unghie di maiale, denti di cinghiale, ali di falene, peli di balene, aggiungo l'etilene, bene bene ma chissà cosa succede, c'è stata un'esplosione, è tutto a suo quadro, non riesco più a trovare il naso, la mia lingua, la bocca e i miei occhi, è tutto sparpagliato al buio pesto dove sono i miei pidocchi, io mi trasformo e mi trasformo come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, bye bye bye bye, io sono Blio e mi trasformo come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Mr. Hyde, da quando sono nato in una strana stanza mi sono mescolato, sono un concentrato di cose che io ancora non conosco, e a volte perdo i sensi, mi trasformo, sono un mostro, sono uno scienziato capellone sgangherato, un giorno ero assonnato e ho rovesciato la pozione 929 dentro la boccetta 39, chissà cosa ho mischiato, i tasti di una cover, foglie di baobab, peli di mammut, le ruote di una smart, le penne dei miei fan, grasso di ippopotamo col brut, anche le scorregge di Trombino e Pompadour, e adesso la mia vita è come un film in bianco e nero, muto senza suoni, in pratica una cacca, che mi succede? Escono buboni sulla faccia, crescono i capelli, gli artigli che disfatta, volevo diventare più sicuro di me stesso, un essere perfetto, e adesso quando esco con le tipe mi trasformo all'improvviso, le graffio col sorriso, sono diventato il mio pallino, io mi trasformo e mi trasformo come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, bye bye bye. Guarda male, sì, mi guarda male.